Le 8:19 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan. Con noi il direttore del Foglio, Giuliano Ferrara. Buongiorno e ben ritrovato. Buongiorno. Perché da 3 giorni non va in onda in Rai? Perché non ne ho voglia. Non ne ho. Mettiamola così. Vabbè. E i contratti che si fa? Uno fa il contratto e non c'ho voglia. Mettiamola così, non erano comunque le domande alle quali intendevo rispondere, sono cazzi miei, diciamo. Vabbè, insomma, andiamo avanti. Ho capito, però Ferrara. Andiamo avanti, grazie. Andiamo avanti, non si può sapere perché da 3 giorni vai. Andiamo avanti. Oggi almeno andrà in onda, questo lo possiamo sapere? Andiamo avanti. Cazzi di Giuliano Ferrara. Bravo. Ferrara, io la devo salutare. Posso permettermi di chiederle se stasera la vedremo? Sono soldi della Rai, tra l'altro, quindi una soldi famosa, pubblici. Una famosa, che vuol dire cazzi miei? C'è una famosa dicitura, si chiama fine delle trasmissioni. Ah, ecco, poi basta. Si suona l'inno nazionale. Anche se è servizio pubblico, quindi il cielo, le nuvole, eccetera. Accontentatevi di questo. Scopriremo alle 8:30, lo scopriremo accendendo la TV. Grazie a Giuliano Ferrara.